Buonasera, per scrupolo, lo senti la 50, diviso tra di Catiello, là, quello piccolo. Ma sulle braccia bello quell'aria che arrivava. Sembrava che lo so perché è impressionante proprio una cosa, sì. Eppure qua come siamo arrivati, dopo un poco, detto che ma sentire un bello vivente, un aperto la finestra. Facciamo di nuovo il tentativo, apriamo davanti e dietro, io ho le scure del garage qua, no? Tutte e due che si aprono da sopra, la finestra di mezzo e poi la finestra dell'orto, cioè che dovrebbe circolare, ma dove cosa c'è? Ma che piacere proprio, ha molto sorriso, mamma, questa muranta bella che ho detto da Villa Castelli, e c'è cazzo ma fa per Dio. Passerà, è una goduria quando stai al fresco però, una goduria, si gode proprio una cosa bella, quasi come che stava bueno, proprio al sonno, bello. Brutto. Io stamattina sono andato a facciare con la vespa verso le 10 più o meno, quando ho lasciato il piso della misura, ho dovuto abbassare la mira del casco che mi stavo bruciando gli occhi. Cosa impressionante, sono andato alla Madonna da capo, Non riuscivo a vedere. Questa è la potenza massima che sta esprimendo, poi penso non è che volevo c'è andata così. Oggi invece mi ha dato lì penso Vincenzo Portone, no? Dove mi ha risposto che praticamente ha messo a posto la vespa, tutto a posto, confermatissimo per martedì. E niente, poi ce la teneva, no? Mi ha detto prima che aveva un problema, diciamo, sulla, non ricordo, sulla candela, dove cazzo ha detto. Ma che dico, non cambio candela? Il numero uno c'è stato lui, ho avuto contatto con qualche don altro che mi ha parlato di candela, ma non devo fare le candela. Ma sarà che sono due anni che non cambia la candela alla picca, se per qui. Se va bene, scusa, se va bene. Io ho per scrupolo quando andavo a pizzicare, sono pulito, l'ho messo nel palco, come io uso le champion. Per scrupolo. Ma andava bene lo stesso. Pierino, fortuna che è venuto stamattina. C'è un trovatore da sopra dove stai galleggiando. E stava pullato appena appena. Tutto a posto, pulito, c'è un cambiato la candela, mi sono cambiato. Solo che lui portava le candela. No, vedi, io ho provato tutte. La Champion c'è una candela, ho trovato la soluzione con un'altra candela, io non la copierò mai più. Mai più, poi la proverai anche tu. Un giorno mi dirai se è vero. Come accensione, come tutto, non ha nessuna gradazione, è unica e praticamente lei fa tutto. Invece quella a 80 gradi, quella a 70, quella è meno calda, meno così. La Bosch, io uso quella, tutte e tre. Pure la TS, aveva problemi, la TS compava ogni poco che la cambiava, le scoppiava le candele, non lo so come mai, poi si muovete che ha fatto uno che non lascia. A distanza di 3-4 giorni guardava che cercava a fare così ma lasciava a terra. Io l'ho messo la Bosch, alla TS niente da fare più, tutto a posto, non le cambierò più qui. Bosch. Sì, io Bosch pure sono buone. No, io non c'avevo le cento. Ah, ne alzava. Pianino da quel messaggio, minchia che ho detto Peppino, ho capito subito che andavo con la pista, falli una qualche esperimento, lo vogliamo, se ce l'hanno, parliamo, non è che a tempo lo vediamo ogni tanto, nonostante che ho l'impegno mio, però ogni tanto la guardo, la vedo, la faccio, è giusto per, capito, per stare più tranquilli, benissimo, tanto ci vuole, no Peppino, le NGK mi fanno schifo pure a sentirle a me, sono cinesissime, non lo so, io mi avevano prima detto NGK, però onestamente ho avuto molte delusioni di quell'antenna, non ho chiesto a scelta di quelle candele, non ne voglio più sapere niente, non mi piace. Vabbè, l'aveva comprato, niente, vuole il prossimo che a casa sarà comando. La parte del motore, non sega, si fa, crea sempre l'olio. ieri sera poi, no? Andammo prima e ci fermammo al solito posto perché mia moglie ha fatto un altro bello ripasso, annaggia sua, si ha fatto un altro quasi un chilo, poi si sta faceva, stava imbrunendo, non si stava vedendo quasi dritto, un'altra cosa stavamo, cercavano a muovere. E nel frattempo io che sono stato quasi tre quarti d'ora fermo a fare foto, puttanare, insomma che passavo dietro, mi sono controllato le cuffie con pressorina. Ma dove mi credi che quello me l'ha portato tutte e due, due e mezzo, e poi anche pure sgonfiato? Ma è una cosa micidiale pure con pressorina. Sì, così sì, ce l'ho io, due ce l'ho qua. Due ce l'ho qua, di vento, uno manca la manichetta. Vedi che arriva a sei, Stato attivo. No, Peppi, forse non hai capito quello che dico io. Il compressorino, quello piccolino che mi comprai, manca power batteria, quello c'ha l'impostazione, io mi ho regolato 2,5, come diciamo, il 2,5 lo può scattare solo solo, capito? Quello basta tirare sopra la linguetta della manica, aziona, metti il dietro, lo fletti vicino, premi il pulsante, a 2,5 si ferma, non si discute, e così l'ha fatto a quella davanti stava a 2,1 e mi ha gonfiato, salta 2,5, che cazzo è che ho fatto io qua? E mo è assai, e poi lo devo sgonfiare con quell'attrezzino piccolino che ho per vedere la pressione, no? È che portato a rete a 2, quella invece di rete aveva bisogno, quella stava a 1,9, azza che ho detto io, e quella me l'ha portato a 2,5. Capito? Quello che ho io non è regolare, non è impostabile, e sono quei compressorini che si mette a... Che ti vuoi caricare un telefonino, qualsiasi cosa che c'è, no, è spettacolare. appena, non lo so dove cazzo va a trovare tutte queste cose, Vincenzo, eh? Che tipo di radio? È la radio che tiene pure la sintonia manuale, diciamo, come le radio vecchie, che però va sulla 27 MHz, va sulla 45, va sulle... E c'è una bella gamma di frequenza, eh? Bella, bella, dove cazzo vuoi te la puerta, eh? Va bene, solo che tu mia Tito Castro qua, chi era amico? Tu anche oggi mi sta parlando. Ti saluto, ti saluto troppo per... Non so se mi stai copiando. Ciao, ciao, buona serata, ci riascoltiamo alla prossima. Chi è che ha detto Castro qua? Chi è? Capito, l'ho scritto tutto in cosa perché volevo la conferma. perché c'erano un bel di corsi, di cifre, boh. Va bene, vai, aspetta, rispondo a questo, ci aggiorniamo subito già. Questo è comunque. Tu troppo voci, paga. Lo sai già questi cosi come sono, no? Guarda adesso. Io vabbè, alza appena appena. Alza appena appena. Guarda, vai. Così. E così va bene. Questa lampadina già però la cambio so. Adesso vediamo un po'. Qual è la foto? Allora, focus off, io subito le cambio sempre, subito, anche in questi che ho, tutti quanti, sono tutti già con LED, bello bianco ghiaccio. Ma cos'è originale? Magari non quello originale, ma sono uscita poi, casi non compareggia, dopo l'originale, mi sa. Ma infatti adesso lascio così perché ho qualche richiesta, però siccome no, vediamo un po'. Sta contendenti ci sono. Ma lo sai, curiosi. Comunque sto pescendo, pallido. Te l'ho detto, io mi pescavo sempre, era difficile che me ne andavo senza prego. È quella zona lì, una volta te l'ho detto, ci sono andato così, stavamo rientrando da Sintino e ci siamo fermati a prendere il caffè e ci avevo dell'esca così ancora e ha detto ma adesso me la consumo qua e allora ci ho iniziato a prendere una, due, tre oratelle, tutta la stessa paglia. Era 500 grammi le prendi lì, però io ne ho preso una anche a 3,950 kg. Ottima, no, io di quel peso lì li ho viste solo sott'acqua. E c'era tutta la gente che passeggiava, si è scesi tutti giù, detto, mi fate mandare fuori perché l'altra volta mi hanno fatto scappare, questa ha detto, oh, che bella, ce l'avevo quasi vicino alla battigia, me ne è scappata una, ma bella. Madonna, già ci vuole il tempo del recupero, poi, vero bindaccio. Era di quelle donne che era con le conchiglie, quelle continentali, a Napoli, tutti loro che vero sono passati sotto la gara e mi hanno visto che stavo tirando, no? Che la cara era piegata, niente. Quando io l'ho tenuta alzata, di modo che non puntava, capito? Ho detto magari si punta qualche roccia perché ci sono anche rocce. L'ho tenuta alzata e l'ho vista, io l'ho vista proprio appena l'acqua, capito? Ce l'avevo la lattigia quasi. Questa pianta, oh che bella, pa! La tua strattore me la mia spaccata la rete. Porca miseria, allora, è così quando ho preso la barracuda, più di un metro era, come sono usciti dall'acqua i turisti, Gesù Maria, mi hanno assalito a farsi le foto. Io non ho che ho detto, ma non ti giudizio assassari, che se mi avevano maniati, la vedevo già mia, ero quasi un quarto d'ora che stavo combattendo, se arrivo dalla battigia mi ero così rifugito. Perché la gente si deve allontanare, quando la si tira del fuoco io mi abbasso anche, perché magari ti vede che è dallo strattone, capito? Ma non sono così grandi, sono loro, già che sono furbe, le orate, che non ce n'è l'uguale. Americani, bibbi, ma non si può più comprare manco l'esca più ormai, con le cose ormai, la sardina, filo elastico e via andare. Col filetto, la sardina, l'Italia, la testa, la coda, la apri in due, li togli la spina, li metti la mano dentro e poi lo leghi col filo elastico, così è prima. Se non vi sono besciariti, se no ti ramani da tutti i besciariti, perché la sardina è tenera e quindi i pesci piccoli se la mangi. Ma gli conviene, secondo me, di notte, col barchino e mandarla fuori tutta, o quello che si può col barchino. Allora sì che la lente fuori al largo, bella. Ah, ma io guarda, al lancio li ho sempre presi. Prendevo bei mormoroni lì, ho preso razzi, ho preso mormoroni, ho preso ratte, sarai, e lì c'è di tutto, anche io a aging ho preso la cosa, la razza piccolina era, non liberata infatti, a aging, la giubiliata, No, perché c'è lì una striscia che devi lanciare in quel punto e non sbagli, ci sono le biglie. Quella c'è tipo pittile, la chiamano l'autostrada. Ma se ti compiti e tu entri e vai invece che sulla destra, sulla sinistra c'è un tronco di albero e in base di linea quel tronco li lanci e c'è proprio l'autostrada, ma devi lanciare a 150 metri lungo. E come cacchio fai? Ce n'erano due che facevano scuola di lancio, ma non hanno detto che tondo, sono caretta al cama, queste qua noi facciamo scuola di lancio eccetera, ne avevano preso tre violate grandi, tutte belle. No, col barchino conviene già, col barchino anche a 300 metri la puoi portare, cosa c'entra? Ma ti ricordi il negozio che c'era al centro commerciale di pesca, quello su, che è l'ultimo che ha chiuso, no? Quello lì, cosa aveva? Tutte le fotografie appese di lui e del figlio, tutte orate, prese lì, al terzo sesso. Già me lo ricordo, sì, alla Riviera di Sorso, sì, me lo ricordo, era su. Perché non c'è più quello lì? No, hanno chiuso tutti lì, hanno chiuso tutti. Quella era l'ultima attività, a parte vabbè che c'è un bar aperto adesso, però come attività così c'era solo quello e ha chiuso. E non ho detto che chiude anche il Torre, quello di Fu. Una ne sai. Tu. E due ore di suore, Luca. Già, stavo rispondendo al telefono. C'è uno che chiama ora, fallo venire avanti tu. Aspetta. Ti stavo dicendo che anche Tone, quello di Rimpunti, mi hanno detto che ha chiuso, vero? Ma vai, non lo so. Io lì poco e niente ci compravo. Poco e niente ci ho comprato lì. Un grandissimo negozio comunque. No, io lì mi servivo. Cazzo, sembrava un negozio alimentare, sempre pieno di niente. Sempre pieno, A me si è trasferito, boh. Quello era uno dei più grandi. Io andavo a Predanieda, adesso mi ricordo il nome di quel negozio. Cazzo, chi c'era? Un capannone era. È quello che c'era vicino ai cinesi, quelli che aggiustavano i telefonini, che rimane quasi dove c'è il mercato di una volta. E lì la cosa c'era il mercato all'ingrosso. Ho capito. Io non ce l'ho mai andato lì, non ce l'ho preso, ce n'era una lì punti nel discesone lì e poi ha chiuso e adesso non so più dove andare, ma non sai cosa prendiamo, esca tipo come fa il marito di mia nipote, si compra, va in quei negozi dove vendono i surgelati, si compra un chilo di gambiriti, se ne prende il fatto che li possono servire per pescare, gli altri li lascia in freezer. E prende i bipissimi veramente, saragoni di chi si vanni, non so dove va, dai, però prende i bipissimi. Oppure stanno distruggendo quanto c'è, con le reti, capito? Se no, lui, andiamo una sera se ti vuoi pittire con una sardina, la mettiamo in un bastone e la mettiamo nella battice, ci prendiamo i granchitti, chi ci sono omicidiati? Quando di Biazzi. Di notte è bello, amici, già. Non so che è bello di notte. Io non andavo di notte, andavo dalle 8, mettevo già il portacane con le candele chiuse ancora, quando la gente se ne andava più con le cane, capito? Facevo così, di modo che prendevo il posto. E c'era una greffa una volta, no, tutti le decide noi, perché ci siamo noi, dobbiamo allargarci. E anche lui, gruppo era giudito, Ero già a pigliare un portacane con il viracano. Ma noi ci mettiamo sempre qua. Oggi ci sono io, cosa vuol dire? Infatti. Io ho la concessione, ho la licenza. Come? Spero che ce l'abbia anche tu, le dubidi. Forse all'epoca non c'era la licenza, io me l'ho rinnovata come ogni anno, online. No, io non l'ho rinnovata, ce l'ho, però non è rinnovata, devo rinnovarla. E andrò alla capitaneria perché perché sono andato a casa di un amico, siamo entrati nel sito, tutto quanto, non è riuscito a... è cambiato tutto, non so se ha sbagliato lui, non lo so, ma ha cambiato tutto. Io prima l'ho stampato io, l'ho stampato anche all'attarino la prima volta. Sì, perché è cambiato, infatti io l'avevo fatto vedere a Natalino, gli avevo detto entra qui, fai così e così e così, perché se no non ci riesci, capito, non ci riesci a farlo se non sai dove entrare, nella tendina, poi nell'altra voce, eccetera. Allora, passo passo gli ho spiegato come fare, ce l'ha fatta in un attimo, perché anche lui non riusciva a trovare, capito, la voce del rinnovo. Però se conviene online già. Ma adesso che dello speed? Beh, non c'hai. Sì, che ce l'ho. Allora. Niente, intanto se l'hai fatto già online, sei già registrato, perché serve la registrazione. Sì, io l'ho fatto già tanti anni che lo faccio, non è adesso, non l'avrò fatto 4-5 volte. Io prima ci andavo tutti i giorni a pescare, non c'era giorno che non andavo, come uscivo dal lavoro, a voler essere, io lavoravo in pescheria ultimamente, a voler essere a comprarmi 3 sardine o un paio di bucconi, qualche cosa andavo, capito? Andavo sempre. E poi ti è passata la passione, e è successo a me al surfcasting, io facevo anche bolognese col galleggiante, mi piaceva molto Starlight, però poi un po' perché le esche costavano un botto, e io andavo a Muridu, a Americani, poi ho detto allora mi do gara subacquea. Io Americani, Cordella e Bibi qualche volta, non sempre, Bibi li usavo poco, qualche volta li usate anche Bibi, però gli Americani erano quelli che usavo di più. Americani e Cordella li compravo 4 scatole di uno e 3 scatole dell'altro, sempre così, ci prendevo una barca di soldi ogni volta, già costavano allora 5,50 mi pare, e vi erano i 4. Oh, il forbice, guarda, ci ha fatto un sacco di ma anche loro probabilmente le pagavano tanto, e non è che sicuramente le pagavano tanto, però cosa ci volevi fare? Già quelle ci volevano le esche, perché a volte andavi con la sardina e magari il pesce lì non era abituato, non te la mangiava, perché a me è capitato di mettere 2 esche diverse, niente, con guida e bu. Non so, che invece ci riate abituato a mangiare su di più di esca, perché magari li mettono quelle e quindi è abituato a mangiare quello, capito? Ma lo sai cosa bisogna prendere? L'esca finta e di quei pulpi, di quei calamari finti lì con l'amo sotto, grazie, e fare tipo traina, così va bene, così è di lusso. Sì, non so quante ne ho preso qualcuna, di quelle, anche quella bionica, la chiamo, l'esca bionica, non so se c'è presente quel pesciolino che è di gomma, e poi ne ho altre piccoline, sempre ragù. Sì, ne esistono anche il granchietto, che sembrano veri, quell'altra batteria, non so se l'hai visto, che nuota, è tutto snodato quel pesciolino. Allora, alla Roccette, per esempio, sotto la chiesetta di Barai, lì solo a Muridu, guarda, manco il tempo di arrivare l'esca in acqua, che Saragone è già attaccato, ma Tanniri da bui era un casino, da chi si fra piombo, però c'era la soddisfazione perché non facevi in tempo, manca a sederti, che ti stava strappando, era una cosa allucinante, con canna grossa a me. Ma lì ci vuole quel coppa paracadute, se no li perdi, sarebbe portato lì su, ti si sta. Ma di notte già, in quello strappiombo, vedevi solo con la pila in fronte, vedevi a malapena quando il pesce ce l'avevi già su quasi, capito? Lo sai che su strappiombo, però guarda, come si pescava lì, era una soddisfazione, a chi era una da lì dall'altro. Ma non c'è un punto per scendere giù? Sì, cioè un punto lo devi portare sulla destra, scendi, scendi, scendi fino a quasi a un metro dall'acqua, addirittura un metro dall'acqua. Infatti lì pescavano molto col galleggiante, perché quella zona era molto, se non ci andavi presto ti fregavano il posto. Ci pescavano anche con galleggiante, si doveva scendere lì e poi con lungo, allora riuscivi a salirne. Ma io veramente ero uno dietro l'altro che li tiravo su così, facevi fatica con un mulinello, perché a tirare su dallo strapiombo tre etti di pesce venivano 2 chili. Lo so, io lì facevo pesca subacquea, le roccette bianche, e prendevo le seppie, erano a due, sempre in coppia erano. Cazzo, c'è fondale, perché c'è fondale. Però già si trova la roba, lì ho visto anche una bella spigola, non ho fatto in tempo a tirarla, però era bellissima. C'era stata minimo che era 3 kg. E poi anche lì ultimamente stavano i gozzi, infatti tutti i pescatori abbigliavano a bozzi, di andarsini, che c'erano le canne, no, sotto entravano nell'insenatura appunto questi gozzi, cioè la gente a bozzi, andarsini, perché andavano a incagliarsi le lenze, cioè, ma con tutto lo male che vivevo, io dico, brutti chi bisotto, vedi che c'è gente pescando perché vedi le luci, no, è di questo gozzo. Perché c'erano le coscandaglie, magari vedevano il pesce che era lì, capito? Loro c'erano le coscandaglie, tu vedi proprio il pesce bizzarro, io l'ho visto, ci sono andato in barca e ho pescato le pizzurne con un amico, ma pizzurne, ma l'ho mai visto, non conoscevo manco il tipo di pesce, io con le pizzurne manco le conoscevo. Mi ha portato vicino a Bosa e ci aveva l'itinerario, gli hanno dato l'itinerario dove andare a pescare. Cazzo, ma tiro una e mi dico, con le canne elettriche, però non c'è gusto, a me non piace. Ma perché c'era fondale, col mulinello elettrico, allora vedi la canna bigendisi. Dolce fondale sì, o bollentino, usano anche. Ma lo sai il piombo da quanto era? Da mezzo chilo. Beh, perché c'è fondale? Sì. Tu non aveva resa, c'era un cordino tanti colori. È tutta una pesca diversa, una pesca più grossa, dai. Io mi sono messo con una cannetta di quelle piccole, prendevo, come si chiama, e lui mi ha detto, io che ce ne andiamo qua, che non si pesca nulla, lui non sta pescando niente con le cannette, che io avevo fatto, lui ci ha comprato tutti i terminali già fatti, ci ha comprato tanti tipi di esca, roba del genere. Io sono andato con i vermi di sabbia di Platamona che avevo preso, quei vermi russi, e mi dava a due li risarrai, a bocca a vista, li alzavo a due. Ah no, io mettevo 3 ami anche, 3 ami ci mettevo, perché lì usano il trecciato su quelle canne, trecciati grossi, poi. No, me le stavano regalando, guarda, 5-6 canne, la traina proprio, con quei mulinelli, quelli grossi, marrali, ma grossi, allora ce ne siamo nel bozzo, canne quelle classiche lunghe 1,80-2 metri, così sono. Non prendiamo anche una nappa, bisogna un mulinello, più pure un chilometro di lenza. Te li vendevi a gente che va in barca, ti facevi subito, lo sai quanto ha pagato una canna? 1000 euro aveva pagato, una canna di quelle elettriche. Costano. Queste le usavano per i tonni, per la pesca al tonno le usavano. Bisogna un mulinello. Che sopra la canna è piegata, capito, il manico, per metterla nel coso, nel reggicano della barca. Aspetta che risponda a questo. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola della Sardegna. Oh, non viene propagazione. Infatti un giorno ci organizziamo, ripeto, io mi porto quella da aging, perché da surf casting non ne ho più. E organizziamo quello che riusciamo a restare, a bisogno andiamo, se arriviamo 7 kg di bani e 8 etti di mortadella. No, io mi porto solo cracker, non ne mangio di bani quando pesco, io mangio un pacco di cracker così e basta, il resto leggero. Neanche io, forse carbonara. Se me andiamo prima di andare, sapevo. Andiamo prima, ci portiamo dei cracker, roba così. Non è quello il problema è pescare, da voi c'è andare. E infatti se ci manca l'esca già ci abbiamo i cracker. A proposito, domani devo comprare. Quindi ho finito, perché me li mangio quando sento che mi si sta abbassando la cosa. Allora me lo mangio un pacchetto e risale. Salati in superficie. Anche te ho preso quelli, anche io ho preso quelli lì e li uso per la stessa cosa. Però mi piace spalmare anche quelle formaggio piccanti, cremoso. Mamma mia. Cazzo, sì. Ma così a volte, sai come succede, ti si abbassa tutta l'ora e allora mangio questa roba qua. Hai visto quella roba che ho preso su Amazon? Ti ho dato il video, quei salattini. No, non l'ho visto. Oh, aspetta. No, a me non sono arrivati i salattini, niente. Tu le mandate anche a chi tu hai. Ma ho convinto di averle mandate anche a te, aspetta e te lo mando. Gli bagliato buono 24 lattine di Coca-Cola, ma non per me. Che costa meno che la Conad. La Conad costa 94, 98, boom. La lattina da 330. Cazzo, su Amazon tirano la consegna a casa il giorno dopo a 60 centesimi. Cioè, ma tira nel gomito. Se dove si risparmia bisogna comprare adesso. Guarda, c'è mio figlio che si veste da Shein, quello che c'è su internet. Tu devi vedere un figurino, sempre ben vestito, in giacca, cravatta, questo e quell'altro, spende una cazzata per ogni cosa. 20 euro, una giacca, la cravatta l'ha pagata lo stesso poco, 2 euro mi pare, una fesseria. Compra tutto con pochi soldi. Io sto comprando molto su Temu, a parte AliExpress, però moda, abbigliamento, questa roba qui su Temu, ma anche ho comprato anche altra roba di elettronica e poi ti arriva subito, il bello è quello, scarpe, pantaloni, adesso mi deve arrivare dei costumi. Su Temu, guarda, io mi trovo benissimo. 10 giorni ce l'hai a casa la roba, dai 6-10 giorni. No, Marco, quella che ordina da Shein si arriva in 3 giorni la roba. È sempre roba bella, Edu. Ti sto dicendo che roba non è roba di scarto, ecco. È roba, prima di tutto, che è roba che si usa alla moda. Scarpe, prende, giacche, cravatte, di tutto e di più. E infatti anche io adesso devo andare a vedere, perché lui compra con la carta e la carta non ce l'ho e me la faccio ordinare da lui. Beh, ormai è tutto con la carta di IVA, purtroppo. Io ce l'ho già registrata, sicché non faccio altro che fare il pagamento, come su Amazon, eccetera, eccetera. È già registrata la carta, di solo mettere il codice. Giustamente. Ma non hai sentito il telegiornale, Luigi, che c'è stato un blackout internazionale dei computer, sportelli bancari, insomma tutto in tilt è andato. No, non l'ho sentito. Ho mandato la nuova e poi non la giurigida oggi ancora. Non ho capito, che roba ha mandato? No, ho detto, ho mandato la nuova, io mando i giornali tutti i giorni, no? Dalla Nuova, Sport, la Gazzetta, Libero, eccetera, eccetera, no? La mando a decine di persone, no? Che però oggi non me la giurigida, ho detto. Vai, leggila. Ha bloccato tutto, anche aeroporti, in tilt, navi, tutto, non potevano fare operazioni nella posta, niente, tutto bloccato. Adesso non si sa se sia un errore, ma adesso l'hanno trovato il problema qual era. Non si sa se fosse un errore o se magari qualche hacker che ha fatto questa storia. L'altra volta era un hacker, l'altra volta che si è bloccato. Questa volta però a quanto pare un blackout. Grazie. Vabbè, mi ti ho mandato un video, però non era quello. Vabbè, comunque te l'ho mandato lo stesso, anche quelle su Amazon. Aspetta, sto cercando l'altro, perché è uguale l'altro, capi? Comunque, guardate, già quello, anche quelle lì le sto prendendo su Amazon. Siamo andati anche là, perché sono andato lo stesso giorno praticamente. E, questi l'ultimo che abbiamo andato, 60 centesimi, perché qualcosa non ne hanno. Non ne hanno più di questi. Faccio poco sabato che mi viaggiano. O dopo cena o metà pomeriggio. 60 centesimi su Amazon. Ah, sì, riconosco, dai. Sono quegli stick che hanno un sapore particolare, sono speziati. Sono buoni, salati poi. E qualcosa non ne hanno più, dice, no, non ne stanno più portando di quelli. Hanno le confezioni, quelle da tre, quelle piccoline, che però ci sono tre qualità, e in mezzo ci sono anche questi. Sono tre separate, no? Allora ho detto, ma scusa, se io voglio solo questo, ma non me li fanno ordinare. Cazzo, detto, boh. Io oggi sono andato dallo Sfine e mi sono comprato quelle mortadelline, perché non le trovo da nessuna parte, mi viaggio in un mezzo, quelle di uno Sfine. Sono mortadelle, costano un euro e qualcosa, e quelle mortadelline piccole, che praticamente loro fanno la mortadella, la parte finale che non ci sta, fanno le mortadelline, capito? I rettili, gli stai dicendo? No, non sono rettili, è proprio una mortadella, è una mortadella intera, piccola ma intera, capito? Sì, l'ho vista, c'è un po' dappertutto, che sono piccoline, forse tre etti, boh, una cosa del genere, sì. E io ho la fettatrice, ma avevo intenzione di venderla, perché la uso poco, capito, poco e nulla. Avevo intenzione di venderla. Molto comoda, ma a chi la utilizza? La utilizza per cosa? Per quando devo fare le melanzane. Le melanzane fritte o per farle poi appunto in altre maniere, perché le melanzane, le zucchine le taglio tutte precise, capito? Perché secondo come le devi cucinare, soprattutto fritte, e ne fai una fine, una grossa, è un casino, allora ne scendo la fettatrice e le faccio tutte dello stesso spessore, sia le melanzane che le zucchine. E anche io le faccio così, però con una diversa maniera. Cioè, non so se è presente quelle macchinette che vendono le bancarelle alle feste, quelle che affettano, eccetera. Le fai come vuoi, le puoi fare lunghe, le puoi fare a fette, e le fai senza consumare corrente. Sì, quelle manuali, tipo la grattugia, sono che hanno le lame, quelle le lame regolabili. Avevo visto in televisione una cosa del genere, che ruotavi questo pomello e ti cambiava lo spessore. Dice anche quelle, e ti fanno anche le patate a forma a ondina, già me moragussi, per fare le patate fritte. E avevo visto quelle lì in vendita. Allungate, adesso mi si è rotta quella lì, ce l'avevo ma mi si è rotta. Adesso ho la prima festa che vado, che la vedo e compro. C'è sempre questo qua di Milano che non prende manco fiato col microfono. Ma proprio cazzo, è una cosa allucinante, sta sempre parlando, sempre dicendo, non asciuta mai. Oppure quei panni che fanno vedere in microfibra, che hai visto che le danno fuoco anche, puliscono gli specchi, il vetro e pulisce benissimo. Sì, senza detersivo, buttano il grasso, gli passano carne grassa, roba leggera, e loro passano questo straccio, senza detersivo ti pulisce il vetro. Però bisogna vedere se è quello che hanno loro e quello che vendono, è quello che bisogna avere, perché ti fanno vedere magari una cosa e poi ne vendono un'altra, tipo come fa la Folletto viene a caduto e ti fa vedere come aspirano, però tu devi sapere che quello che usano loro c'è due motori, è normale che aspiri così, quello che ti vendono non è uno solo di motore, loro ti fanno vedere quello loro, però quello che ti vendono aspira meno. Ma esiste da una vita il suo Folletto e da voi, ma via, ogni tanto passano i suoi rappresentanti, poi costa una barca di soldi, costa. Aspetta, rispondo a questo già. Io ce l'avevo, poi ce l'ha portato via la mia ex moglie, ce l'ha portato via lì, ce l'avevo quello della Folletto, però ne ho una adesso che come si chiama, è di Danimarca, lo stesso, la sfida contro, si tira sul tappeto addirittura, fate conto quanto aspira, puoi regolarla come vuoi, poi l'aspirazione la puoi regolare, la puoi mettere più bassa, più alta, però se devi aspirare molto, tipo il tappeto con lo zerbino che c'è fuori, il vuoto, il golfo, te lo aspira, te lo alza.